Eccoci qua, dunque, BCE, Merkel fa scudo a Draghi, questo è il titolo di apertura questa mattina del Sole 24 Ore. No al rinvio per il piano di austerità di Atene, la Grecia stia nei tempi, dunque, mentre Angela Merkel è, immaginiamo, al fresco, visto che è in visita in Canada, si parla chiaramente rispetto alle polemiche sollevate dai cosiddetti falchi di Berlino contro il presidente di Eurotower, contro il presidente della Banca Centrale Europea Draghi. Dice il suo impegno è il nostro impegno, tutto ciò per tutto il necessario per tutelare, tutto quello che fa per tutelare l'Eurozona è in linea con quanto i leader europei dicono da tempo. Così il cancelliere tedesco Angela Merkel in visita in Canada ha promosso ieri la linea Draghi, ha messo a tacere le critiche dei falchi tedeschi contro la politica adottata dal presidente dell'Euro Tower. Insomma, un delicato gioco di sponde quello tra Mario Draghi e Angela Merkel. A suo tempo ci furono delle critiche, delle difficoltà anche dal punto di vista della cancelliera tedesca sulle affermazioni di Draghi in difesa a tutela dell'euro, quel siamo pronti a tutto, la forte attesa poi delusa almeno nella conferenza stampa di ormai 10 giorni fa, ma nello stesso tempo un equilibrio che viene evidentemente tutelato con grande attenzione dalla stessa cancelliera Merkel, poiché nel momento in cui dall'interno del suo paese, dall'interno dell'opinione pubblica tedesca e dai circoli più influenti della finanza e della politica si alzano attacchi nei confronti di Draghi, è lo stesso cancelliere a intervenire. Merkel nella stessa giornata, appunto di ieri in Canada, ha poi respinto l'ipotesi che la Grecia possa discutere la prossima settimana con i partner dell'Eurozona una proroga di 2 anni alle misure di austerity concordate con i creditori internazionali. Dice niente slittamenti, Atene si attenga ai tempi del piano di rientro. Intanto nella pagina 2, proprio nella prima spazio di approfondimento all'interno del quotidiano, si registra la borsa ai massimi da 5 mesi, attese per il salvataggio in Spagna, vola Madrid che trascina Milano, Madrid ieri 4,05, Milano 1,87, insomma segnali di ottimismo per quanto appunto di un giorno dalle borse europee. Questo diciamo riepilogo di mezza estate ci fa anche il punto alla pagina 3, appunto mentre si racconta la visita canadese della cancelliera Merkel, ti dicevo ci fa il punto dell'agenda, un'agenda che vede a partire dal 22 agosto, quindi settimana prossima, il presidente dell'Eurogruppo Juncker sarà ricevuto dal premier greco Samaras, si parlerà dei tagli di 2 anni chiesti ad Atene, ecco già una posizione anticipata espressa da Angela Merkel. Poi però il giorno successivo di nuovo Merkel-Hollande, quindi l'asse franco-tedesca che cerca di ripartire, i due leader si incontrano per un bilaterale programmato da tempo, naturalmente però come dire alimentato da tutti i temi dell'attualità. E poi ancora il 29 è Monti atteso a Berlino, appuntamento di fine mese, sarà la prima occasione per il premier italiano di fare personalmente chiarezza dopo le polemiche che hanno accompagnato la sua intervista a Der Spiegel. Il bilaterale servirà soprattutto per fare il punto sugli appuntamenti europei di settembre. E a proposito di settembre, tanto vale segnalare quella del 6 settembre, il consiglio direttivo della BCE, dalla riunione della Banca Centrale si attendono dettagli sulle misure di intervento dell'euro Tower, insomma, con un Atene che chiede tempo, un Berlino che frena, questa è un po' una parte della sintesi almeno per quello che riguarda la prossima settimana. E poi ancora nel taglio centrale Taranto, ovviamente, dico ovviamente perché come sapete è un tema, come dire, è di fatto il tema di questa estate, di questo agosto, sempre presente oggi dunque i ministri. i ministri a Taranto, e questo è appunto il titolo del Sole. L'Ilva non va chiusa, da Passera a Eclini, un piano su porto, fondi UE, risanamento. Monti dice: tuteleremo la salute senza fermare gli impianti. Ecco, per quanto riguarda il ministro dell'ambiente, quindi Clini, dice no alle interruzioni, ma recepiremo le tesi del GIP. Insomma, una volontà di fare quadrare il cerchio: da una parte quindi la tutela dell'ambiente e le ordinanze del GIP, dall'altra l'esigenza di portare avanti il lavoro nell'impianto. Questo per quanto riguarda il Sole. Vediamo altre aperture. Allora, Monti: niente taglio delle tasse, il Premier esclude per ora una riduzione dell'IRPEF, ma è sacrosanto un fisco più leggero. Così Mario Monti oggi apre la stampa di Torino. Il peso del fisco è decisamente eccessivo e ridurlo è un'esigenza sacrosanta, soprattutto per i contribuenti onesti. Ma non è il momento, non bisogna rallentare e allentare il rigore sui contributi. Questo è il senso delle parole di Monti, che ieri ha escluso qualsiasi ipotesi di taglio dell'IRPEF. Sotto invece la Merkel che difende Draghi, di cui abbiamo già detto, mentre a centropagina invece una fotografia piuttosto impressionante, la stretta che appare decisamente ferma di due navi giapponesi nei confronti di un peschereccio che apprendiamo batte invece bandiera cinese. Cina-Giappone, prove di battaglia navale. Sale la tensione per le Senkaku, isole ricche di gas contese a Tokyo da Pechino e Taiwan. Il tema della definizione territoriale nel mare della Cina non è nuovo. Abbiamo quasi, chi ha qualche anno in più ricorda bene le prime scaramucce, scontri addirittura finite in veri e propri scontri armati tra Vietnam e la Cina per le Spratly, tutta una serie di appunto di sistemi di isole che tendono a sfilare, a sfumare in quelli che sono dei meri scogli, ma con il passare dei decenni tutti questi scogli si sono dimostrati dei punti di attrazione per la presenza di risorse di idrocarburi a largo appunto di queste rocce. E così l'arcipelago delle Senkaku, che è disabitato ma ricco di gas. Pechino e Taipei ne rivendicano la sovranità contestando l'amministrazione di Tokyo. Ecco, Pechino e Taipei in questo caso si trovano, d'accordo su un fronte anti-giapponese. Tokyo che l'ha avuto in dote di guerra. A Ferragosto 14 attivisti cinesi salpati con un peschereccio da Hong Kong hanno cercato di sbarcare su una di queste isole. Il battello da pesca è stato bloccato da due unità della guardia costiera nipponica e l'equipaggio arrestato. Tra l'altro, proprio questa mattina, qualche momento fa, usciva un'agenzia a questo proposito. È stata ordinata appunto l'espulsione dei 14 attivisti cinesi. La foto dunque in prima pagina oggi sulla Stampa. Ecuador e Inghilterra si sfidano per Julian Assange, il capo di Wikileaks chiuso nella sede diplomatica a Londra. Ieri ne abbiamo parlato parecchio, dunque c'era l'attesa per la sentenza che era stata fissata alle 7 del mattino, ora dell'Ecuador, 14 qui da noi. E puntuale la sentenza è arrivata, dunque via libera da parte del governo di Quito, che riconosce asilo politico ad Assange. E dunque un caso che, come scrive oggi il Corriere della Sera in prima pagina, scuote i rapporti tra Regno Unito ed Ecuador. Il governo sudamericano ha concesso il diritto d'asilo politico al fondatore di Wikileaks. Ora nell'ambasciata ecuadoregna a Londra i britannici premono per consegnarlo alla giustizia svedese, che lo accusa di stupro. Torneremo su questi temi, ovviamente non è, come dire, anche qua siamo di fronte a forse un classico del ruolo dell'ambasciata come territorio come ultimo territorio di asilo per chi è in fuga magari della giustizia, per chi è appunto per buoni e cattivi, per essere chiari, ci sono personaggi che si sono rifugiati e magari le ricorderemo davvero pessimi, che hanno trovato però rifugio, hanno messo anche in imbarazzo appunto governi che hanno dovuto fare i conti con una tradizione, un diritto internazionale fondato su una consuetudine del rifugio nei luoghi diplomatici. Dal Corriere, taglio basso, il titolo Facebook, ora vale la metà, ecco, anche questo è una notizia che merita la prima pagina. Scatta la libertà di vendita, le azioni del social network crollano del 6,27%, ma da ieri il titolo dunque di Facebook è liberamente negoziabile nella borsa di New York. Dopo 3 mesi di quotazione il valore ha perso complessivamente il 48% del suo valore, e proprio la debolezza avrebbe in un certo senso impedito che una valanga di azioni si riversasse sul mercato. I big investitori della prima ora nella società, da Axel Partner, DST Global, Goldman Sachs e Microsoft, non avrebbero venduto, rilevano gli analisti, altrimenti il tonfo in borsa sarebbe stato molto forte. Ecco, Repubblica invece, troppe tasse, niente tagli, quindi l'apertura è dedicata alla posizione, all'affermazione di Mario Monti. Ma vi segnalo a centropagina invece un intervento, una lettera del presidente della Camera Fini. Ieri abbiamo letto ampi stralci dell'editoriale di Merlo, in cui sostanzialmente parlava dell'estetica della scorta e dell'esigenza di fare conti rapidamente con quello che a molti nell'opinione pubblica appare non illegale, ma fuori dai tempi sostanzialmente, quindi scorte così ampie, coperture che si fa fatica a capire. Bene, oggi Fini risponde, dice: non voglio più privilegi legali, e chiede nuove regole per la mia scorta. 24 mattino, estate. 7.32, dunque parlavamo di Fini. Come sapete, questa specifica questione legata alle scorte, alle camere d'albergo prenotate per settimane appunto per la sua scorta, è stata innescata da un articolo di Libero. Allora, oggi proprio su questo tema Libero scrive: il ministro ci dà ragione, Fini e i suoi impazziscono, la scorta che scotta, e sotto la cancellieri quella tutela, dice, uno spreco, bocchino la zanna, inadeguata, provinciale. Dopo ore il capo è costretto a prendere le distanze. Belpietro scrive: l'arroganza degli esponenti della casta non conosce limiti. È bastato che il ministro dell'interno dicesse senza reticenze o formalismi che le 9 camere d'albergo prenotate per 2 mesi dalla scorta di Fini sono uno spreco da eliminare, perché Italo Bocchino ne chiedesse le dimissioni. Libero dunque, come dire, torna ovviamente su questa vicenda che sta cavalcando da giorni, ma quello che vi segnalavo in prima pagina su Repubblica è la lettera di Gianfranco Fini, che dice: nuove regole per la mia scorta. Caro direttore, dice, il bell'articolo L'estetica della scorta di Francesco Merlo mi dà l'occasione per qualche considerazione. Nelle pagine interne proseguiamo e dice: intendiamoci bene, non chiedo nessuna solidarietà, non ne ho bisogno, perché è certo e incontestabile che nell'organizzazione del servizio di scorta non ho avuto ruolo dipendendo del tutto ed esclusivamente dagli uffici del Viminale. Ma, prosegue Fini, Merlo scrive: Fini non può non accorgersi di essere protagonista di un privilegio legale. Così degradata, infatti, quella scorta non lo protegge, ma lo omaggia. Questo è un passaggio dell'articolo di ieri. Ed è così che in Italia ogni scorta diventa la corte del potente di turno. Non più luogo e mezzo militare per scorgere il pericolo, ma ornamento e abbellimento di cortesia. Fini dice: non sono d'accordo, gli uomini e le donne impegnati ogni giorno nei servizi di scorta non omaggiano proprio nessuno, fanno il loro dovere con professionalità e sacrificio, non certo perché ben pagati, anzi, personalmente li considero dei collaboratori preziosi da rispettare e non certo dei famigli. Con una certa sorpresa, prosegue, perché colpevolmente non me ne ero accorto in precedenza, ho letto che il ministro Cancellieri ha confidato a Merlo di voler cogliere l'occasione per rilanciare la battaglia che da tempo vuole condurre a testa bassa sull'uso e l'abuso delle scorte. Molto bene, lo faccia subito e non solo a parole. Non dubito né della sua volontà né della sua capacità. Dubito che possa riuscirvi se non avrà il sostegno convinto delle burocrazie ministeriali e soprattutto se il mondo politico non saprà trarre da questa vicenda agostana l'occasione per uno scatto di reni per dimostrare concretamente di non essere una casta. Infine, dice Fini, se non credo che, anche se non credo che raggiungere quando posso la famiglia ad Ansedonia e non a Miami renda necessario rimodulare le mie vacanze in modo più controllabile, più civile, più gestibile, sono comunque d'accordo con Merlo, specie quando sostiene che spetta a me rientrare nel principio di uguaglianza e sottrarmi al regolamento del Ministero degli Interni. Per poterlo fare, allora chiedo pubblicamente al Ministro Cancellieri di intervenire subito nelle modalità che riterrà più opportune per conseguirmi di non godere più di un privilegio speciale. E poi Fini conclude, il presidente della Camera dei Deputati dice: e chiedo ai tanti esponenti politici scortati di far sentire anche la loro voce, di agire non contro Belpietro, che ovviamente ha la scorta, ma contro quel muro di gomma e di ipocrisie che fa sì che in Italia cambiare le cose sia impossibile, a tal punto che persino per vivere senza essere scortati, pur non avendolo mai chiesto, occorre un trattamento di favore, una vera e propria raccomandazione. Può apparire una piccola questione, ma a ben vedere non lo è, perché dietro all'estetica della scorta c'è la credibilità della nostra democrazia e la sua capacità di migliorarsi. Dunque, Fini risponde di fatto a questa vicenda, lancia un appello, staremo a vedere, perché appunto se ci sarà risposta da parte di un sistema che sicuramente distingue e dovrebbe poter distinguere con chiarezza quelle che sono scorte nel senso vero, tecnico e reale del termine, e quelli che sono invece degli ornamenti, come sono stati definiti. Andiamo avanti noi. Meno tasse, manco morto è la traduzione del giornale di questa mattina, appunto di quanto abbiamo poi riscontrato anche su molte prime pagine. Non posso tagliare le tasse di Monti per il giornale. Meno tasse, manco morto. Ma un ampio spazio della prima pagina affronta anche con un taglio diverso di nuovo il tema delle auto blu. Infatti in un fondo di Marcello Veneziani il titolo è: solo auto blu al senatore ciclista, ingresso vietato in Parlamento. È facile dire, scrive Veneziani, basta con i privilegi, basta con le scorte, eccetera. Quando uno della casta però sceglie un'altra strada, passa dei guai. E così la storia del senatore Andrea Fluttero da Chivasso, pedalatore, praticante della bici e non solo, perché segretario della Commissione Ambiente. La storia in estrema sintesi è questa. Da 6 anni Fluttero combatte intorno a Palazzo Madama una battaglia di civiltà. Cerca di entrare nella zona riservata ai senatori con la sua bicicletta, di parcheggiarla là dove ci sono i mezzi dei senatori. Però il regolamento prevede macchine, macchinazze, scorte, sirene lampeggianti, forse anche elicotteri e carri armati, scrive Veneziani, ma non una semplice, popolare e per giunta ecologica bicicletta. Ecco la storia dunque del senatore Andrea Fluttero, che viene ritratto sorridente in sella alla sua bici, peraltro con ampi adesivi in cui appunto è segnalata al fatto di essere esponente del Senato della Repubblica, è anche uno dei paradossi della nostra situazione e cultura rispetto in materia di trasporti, diciamo così. Ma andiamo avanti. I giochi di Londra, ecco, le Olimpiadi si sono chiuse ormai da una settimana e con successo. I giochi di Londra, che il manifesto appunto usa per l'apertura di prima pagina oggi, si riferisce al caso WikiLeaks. E dunque Julian Assange rischia di diventare un perseguitato politico. La Svezia non dà alcuna garanzia di non consegnare agli Stati Uniti, dove rischia la pena di morte. L'Ecuador concede l'asilo politico al fondatore di WikiLeaks, creando un caso diplomatico con la Gran Bretagna, che conferma l'estradizione. Ecco, su questo, su questa vicenda raccontata a tutto campo, a tutta prima pagina dal Manifesto, un commento a firma di Benedetto Vecchi. Dice: il braccio di ferro tra Londra e Quito ha una rilevanza che va ben al di là della sorte di Julian Assange. La posta in gioco è infatti la possibilità o meno che la rete possa essere un medium per un'attività giornalistica al di fuori delle grandi corporation dell'informazione. In fondo WikiLeaks ha svolto, nelle forme che ha deciso più opportune, di diffondere informazioni che avevano un'indubbia rilevanza pubblica. Ecco perché per Vecchi si tratta essenzialmente di una lotta per la libertà di informazioni. E scrive: certo, sulla testa di Assange pende l'accusa grave di stupro da parte della magistratura svedese, un'accusa che è stata sempre respinta dal fondatore di WikiLeaks, che ha visto nel provvedimento aperto da un tribunale svedese un tassello di un complotto per estradarlo negli Stati Uniti, dove è considerato dal Pentagono e dal Dipartimento di Stato un attentatore alla sicurezza nazionale. Una posizione, questa di Assange, debole, come reticente la sua spiegazione sui rapporti intrattenuti con le due donne che lo accusano di stupro. Al di là della vicenda giudiziaria, prosegue Vecchi, è però evidente la volontà degli Stati Uniti di mandare in prigione Assange proprio per il suo lavoro giornalistico. Per questo, dice Vecchi, la sua battaglia va sostenuta, perché la libertà di informazione non può avere un limite nella ragion di Stato. Dall'altra parte invece la posizione di Quito, dunque del governo dell'Ecuador in questa vicenda: non siamo una colonia britannica. Questo è il punto di fatto che è stato espresso dal ministro degli esteri ecuadoregno Ricardo Patiño. Così riassume lo spirito con cui il paese si dispone ad affrontare la richiesta di asilo politica di Julian Assange. Di sicuro nel momento in cui è trapelata appunto il contenuto della comunicazione britannica nei confronti del governo di Quito, l'abbiamo raccontato già ieri mattina, si è innescato un forte movimento popolare che di fatto ha in qualche modo condizionato definitivamente la scelta del governo sudamericano, che si è trovato in quella classica situazione di un paese piccolo sottoposto alla minaccia di una grande potenza, e tale è il Regno Unito sicuramente agli occhi di appunto di un piccolo stato dell'America del Sud. Ancora altri temi che dalle pagine internazionali ci riportano in Italia. Così il Messaggero, accanto al tema delle tasse, naturalmente a quello di cui vi abbiamo appena parlato sulle tensioni tra Londra e Quito, c'è invece quello molto più italiano della benzina: stangata in autostrada. Oggi in prima sul Messaggero: il prezzo del carburante sfiora la soglia dei 2 euro al litro. Stangata nuovamente dunque agosto sui carburanti, il prezzo della benzina sfiora la soglia di 2 euro in autostrada. Per un pieno occorrono 20 euro in più, un aumento che colpisce gli italiani in partenza per le vacanze e quelli che sono già sulla via del rientro. Un litro di benzina, avverte la Coldiretti, ormai costa più di un chilo di pasta e ha superato del 50% quello di un litro di latte. Il timore è che questi aumenti si ripercuotano anche sul sistema agroalimentare, con nuovi possibili rincari per tutti i consumatori. Coldiretti stima che i prezzi del trasporto e della logistica incidano per circa un terzo del totale. Ecco dunque le implicazioni molteplici del caro benzina, e tant'è, sentiamo insieme allora, a proposito di trasporti e di trasporti, insomma, di persone e beni, qual è la situazione, l'aggiornamento sulla viabilità. Tra poco. 24 mattino, estate. Rientri massicci dunque attesi anche per questo fine settimana, in una estate che appunto si è fatta più corta nei consumi, più sobria, un'estate che è anche l'occasione per continuare una riflessione su questa grande crisi. Oggi il Sole 24 ore. Vi segnalo un nuovo appuntamento con i volumi della collana, appunto, che il Sole 24 Ore ha lanciato. Siamo all'ottavo, appunto, all'ottava uscita, la svolta morale. Bene, un tema che evidentemente sottintende anche oggi nella rassegna stampa. Abbiamo toccato di fatto spesso questo tema. L'Italia ha bisogno di una proposta di svolta morale tanto convinta quanto umile e persuasiva, fatta con tenacia, senza moralismi e discorsi altisonanti, con pacatezza e senza radicalismi che lasciano il tempo che trovano. Così parla Bruno Forti, in uno dei passaggi raccolti nella Svolta Morale, l'ottavo titolo della Grande Crisi, la serie di volumi che ogni venerdì racconta i temi dell'economia attraverso le grandi firme del Sole 24 Ore, in edicola oggi, venerdì 17 agosto, con il quotidiano. Sono 14 riflessioni di Bruno Forte, teologo, professore universitario, saggista, arcivescovo cattolico italiano. Ecco, ve lo ricordo, in edicola oggi, appunto come ottavo momento di riflessione sulla Grande Crisi, una serie che è iniziata il 29 giugno scorso con il Fate Presto di Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore. Dunque parlavamo di rientri e dunque vi segnalo dal secolo XIX anche un tema che riguarda, come dire, rientrare è costoso, e i traghetti, l'estate 2012 e anche fuga dai traghetti in molte zone sono stati segnalati e poi verificati significativi aumenti delle tariffe nelle isole, anche nelle isole più vicine alla costa. Ma per il secolo XIX, tradizionalmente molto sensibile a questi temi, dunque l'estate 2012 è fuga dai traghetti, la crisi affossa i traffici, 200.000 passeggeri in meno a Genova, la Corsica meglio della Sardegna, il traffico passeggeri nei primi 7 mesi dell'anno nei porti dell'Alto Tirreno ha registrato una nuova flessione, in particolare nelle rotte da e per la Sardegna, mettendo in evidenza che il prodotto di questo calo è una crisi dei consumi. Partendo dal porto di Genova, in 7 mesi Terminal Traghetti ha registrato 906.000 passeggeri, la stazione marittima dove arrivano le navi da crociera 410.000 in tutto. Il calo dei traghetti si attesta dunque al 17,8%. Nel dettaglio, dal maggior porto italiano sono partite 150.000 persone in meno verso la Sardegna, 50.000 persone in meno verso Bastia, il porto della Corsica, e 20.000 persone in meno dirette su Palermo e la Sicilia. Tengono i traffici con l'Africa del Nord, ma appunto per quanto riguarda invece i numeri dei trasferimenti interni via traghetto, quelli più legati anche all'attività turistica, i segnali sono pessimi, sono negativi, anche, anzi diciamo pessimi, 17,8% è sicuramente merita questo aggettivo. Dunque i ministri resistono ai tagli, è invece l'Unità che apre in primo piano sulla resistenza dunque da parte della macchina dello Stato. Il Premier prepara un piano antidebito ma i ministri resistono ai tagli. Questa è l'apertura dell'Unità, che dà ampio spazio però anche a un altro tema che ci riporta all'Emilia del terremoto, la sfida dell'Emilia del terremoto contro il tempo e contro il caldo per riprendere l'attività 3 mesi dopo ancora le scosse. Oggi la visita della ministra Cancellieri, ne abbiamo parlato nella giornata di Ferragosto, e qui appunto per l'Unità è un approfondimento a doppia pagina sulla ricostruzione. A 3 mesi dal sisma sono ancora 4.300 le persone nelle tendopoli in Emilia. Resta incerta la regolare riapertura delle scuole. La Cancellieri oggi a Bologna per presentare il gruppo contro le infiltrazioni mafiose. E proprio ieri una nuova scossa ha fatto tremare le zone più colpite. Ecco qui nella pagina interna le immagini, ma anche le interviste, una in particolare quella del presidente della CNA di Modena, Luigi Mai, che parla che dice di 4.500 imprese, ben 500 hanno avuto le sedi danneggiate, 250 sono già in moto, ma il 20% non si rialzerà. Soli non possiamo farcela, qualcuno resterà a terra, e chi non riuscirà a riaprire? Inevitabilmente, dice mai, qualcuno morirà. Le aziende che già prima del terremoto soffrivano la crisi difficilmente saranno in grado di reggere i costi della ricostruzione e le perdite per lo stop della produzione, secondo il CNA modenese, saranno circa il 20% del totale. Avvenire, meno tasse non adesso, la guerra diplomatica, insomma i temi principali che abbiamo segnalato, ma anche in prima pagina il drammatico sciopero finito nel sangue in Sudafrica, dunque pugno di ferro della polizia, 18 minatori uccisi che si aggiungono alle altre vittime già provocate da questo sciopero che da giorni sta paralizzando la miniera di platino di Marikana. Siamo a circa 100 chilometri da Johannesburg, racconta Marco Parenti, ancora tutti da definire i contorni esatti del dramma esploso ieri. Secondo alcuni testimoni la situazione è degenerata quando un gruppo di minatori armati di bastone, panga e macete sono scesi da una formazione rocciosa accanto alla miniera, si sono avventati contro i poliziotti che stavano ergendo delle barriere protettive contro il filo spinato. Questa una versione, l'altra racconta invece di un intervento con utilizzo di lacrimogeni e proiettili di gomma da parte della polizia sudafricana, ma di certo resta il bilancio, 18 minatori uccisi. Che la tensione fosse peraltro altissima, prosegue l'articolo, lo testimoniano gli incidenti che hanno puntellato lo sciopero, già costato la vita a 9 persone, tra le quali anche 2 poliziotti, che sarebbero stati letteralmente fatti a pezzi dalla folla inferocita. Le violenze sono iniziate venerdì a causa di una disputa legata agli stipendi. Secondo la direzione della miniera, appartenente alla Lomlin, una società quotata in borsa, allo sciopero l'azienda ha risposto minacciando il licenziamento di 3.000 persone. Sangue dunque nelle miniere sudafricane, la crisi in una lettura diversa, grande paese di attività mineraria, al centro dell'attività mineraria sono state anche combattute molte delle grandi battaglie per i diritti civili. Oggi che il Sudafrica è tornato a essere una democrazia, restano però i problemi, quelli dell'occupazione, quelli di appunto questi grandi sistemi industriali che occupano migliaia di persone e che fanno a loro volta i conti con le difficoltà del nostro tempo. Allora, continuiamo invece con qualche altro spunto. Il premier allergico alla libertà di stampa, d'asilo al re dei censurati. Questo è il secolo XIX, questo è interessante perché racconta anche un profilo nella vicenda Assange del primo ministro dell'Ecuador, Rafael Correa, allergico alla libertà di informazione, da asilo politico a Julian Assange. Dunque la vicenda Assange qui viene letta in una modalità altra, in una modalità che invece sottolinea come la sensibilità di leader politici di fronte appunto a tematiche, a vicende come quella di Assange sia suscettibile di grandi variazioni a seconda delle circostanze e degli interessi, tant'è che nell'articolo delle pagine interne la figura, ecco, del presidente, vediamo un po' se lo ritroviamo, eccolo qua, di Correa, che viene definito ora il salvatore del re dei censurati, che però è allergico alla libertà di stampa. Paolo Manzo lo descrive così: Juan Carlos Calderón e Cristian Zurita. Segnatevi questi due nomi innanzitutto se volete avere idee chiare, ovvero a 360 gradi, di che cosa significhi libertà di stampa nell'Ecuador governato da Correa. Il presidente che ha deciso per l'asilo politico, ricercato dalla Svezia, eccetera, eccetera, è infatti stato molto duro invece con i reporter che hanno cercato di fare chiarezza invece all'interno. Juan Carlos e Cristian sono due tra i migliori reporter investigativi del piccolo paese e dopo un lavoro certosino durato anni hanno pubblicato un libro, Gran Hermano, il grande fratello in italiano, che tutti in Ecuador vorrebbero leggere ma che pochi hanno avuto la possibilità di trovare nelle librerie. Il motivo? Semplicemente sparito dagli scaffali. Il protagonista assoluto dell'opera è Fabrizio Correa, fratello maggiore di Rafael, ma soprattutto gli affari miliardari fatti dal primo con appalti firmati dal secondo di suo pugno. Non una, ma ben 35 le prove presentate dalla coppia di giornalisti a certificare la veridicità di ogni rigo scritto. Tutto inutile. Di fronte all'ira di Rafael Correa che li ha portati in tribunale, la notoria indipendenza della magistratura locale ha portato gli sventurati ecuadoregni in primo grado a una multa da pagare pari a 2 milioni di dollari statunitensi per danni morali nei confronti del paladino salvatore di Assange. Ecco qua un profilo che completa un po' il racconto su questa vicenda oggi sulle prime pagine di tutti i giornali. In conclusione voglio segnalarvi, sono più di uno ma uno basterà, Liguria a secco, razionate l'acqua. Torneremo a parlare intorno alle 8:20 del tema appunto della emergenza idrica nelle sue varie declinazioni. Intanto, come dire, a mo' di riepilogo, oggi dalle cronache del secolo XIX, il grande caldo e la mancanza di piogge mettono a rischio le coltivazioni di ulive e uva. L'emergenza idrica a Ponente a Levante, i sindaci vietano di innaffiare i fiori e di lavare l'auto. Questa è una delle misure prese per affrontare l'emergenza idrica. Il titolo, ve lo ricordo, Liguria a secco, razionate l'acqua. Di acqua torniamo a parlare tra circa 25 minuti. Adesso linea alla regia, gli aggiornamenti da GR24.